triste come amare, sta settata a guardare tutte cose, tutte parole che niente può fare. Si ma ci agitato che è lo poche libertà che sta terra e sta gente noi giorno ma darà. Terra mia, com'è bella la panzaga. Terra mia, com'è bella la guardà. Non ne ho vero né sempre stessa, tutti i giorni può cagnà. Oggi è dritta, rimane storta. E che sta vita se ne va, i vecchi vanno rinta chiesa con una patria e ha paura sta morta che non ci vola sa. Terra mia, tu si chiede libertà. Terra mia, i mo senta libertà. Da da da da da da.